Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Di persone come lui ce n'è più bisogno sulla terra che nel cielo. Nel cielo ce n'è tante di belle persone, qua ne rimangono sempre poche. Quindi quando si perde una persona così è proprio un grande dolore, perché ce n'è più bisogno nella terra che nel cielo. Questo era il commosso omaggio di Roberto Benigni, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Oggi ai funerali di Umberto Eco, funerali laici che si sono stati al Castello Sforzesco di Milano e dei quali vi racconteremo un po', diciamo, i momenti salienti più tardi, quella fine di Effetto Notte. Invece ci concentreremo sicuramente nella prima parte, dopo che come sempre vi avrò raccontato la sintesi della giornata, delle notizie più importanti d'Italia e del mondo, ci concentreremo ancora una volta sulle unioni civili, perché ne succedono sempre di nuove. Quale altro disegno di legge, qualche volta ho chiesto anche ai commentatori, ha avuto un iter così travagliato, così tormentato come questo? Adesso sembra che diciamo la decisione finale sia quella da parte del PD di raggiungere questo compromesso col nuovo centrodestra, quindi all'interno dell'alleanza di governo, di trovare quindi di fare un maxi emendamento, elaborare questo maxi emendamento che dovrebbe stralciare, quindi levare di mezzo la stepchild adoption e quindi poi essere votata con la fiducia giovedì. Ci sono intanto le varie associazioni LGBT che protestano, che si sentono traditi dagli uni, dagli altri, di volta faccia di quelli, dal poco coraggio di quegli altri, insomma, quindi probabilmente è una legge che non farà contenti molti. Comunque capiremo un po' se effettivamente questa è l'ultima possibile alternativa, come dice Renzi, oppure no. Ma ci sono anche degli altri fatti, per esempio Grasso, il presidente del Senato Grasso, ha detto stamattina che il super canguro era inammissibile. Allora qualcuno si può chiedere, ma non lo poteva dire prima, visto che era successo mercoledì scorso questo scontro tra PD e Movimento 5 Stelle proprio su questo super canguro, e proprio lì poi è iniziato questo stallo ulteriore del disegno di legge. Allora io vi chiedo, dopodiché appunto questa affermazione di Grasso, Renzi che dice che il compromesso con il nuovo centrodestra è un passo avanti molto significativo, Gandolfini, promotore del Family Day, che parla di una parziale vittoria del popolo delle famiglie, le famiglie arcobaleno che annunciano lo sciopero al voto delle prossime amministrative, che ne pensate di questo esito, di questo epilogo dell'iter del disegno di legge sulle unioni civili? Vedo già molti vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, perché è sempre lì per voi, quindi ogni tanto ve lo lancio prima, e vedo già molti messaggi. Potete continuare a scrivere le vostre riflessioni su come valutate insomma tutto questo diciamo percorso travagliato del disegno di legge Cirinna, così come anche gli sms al 349-238-6666, vi ricordo 349-238-6666, molti altri argomenti. Anche torneremo sulla vicenda terribile di cronaca nera del torinese, dell'insegnante uccisa da, così almeno si presume, dal suo ex allievo. Ci sarebbero delle novità, ma parto con la sintesi della giornata. Berlusconi spiato dagli Stati Uniti, la Farnesina convoca l'ambasciatore americano, chiesti chiarimenti su telefonate spiate dall'Agenzia Americana per la Sicurezza. Il caso Abu Omar, la Corte di Strasburgo condanna l'Italia per il rapimento dell'imam della moschea milanese. Unioni civili, via libera del PD al maxi emendamento che elimina la stepchild adoption, c'è pure il sì del Vaticano, giovedì si vota la fiducia. Le candidature per Roma è Virginia Raggi, la candidata del Movimento 5 Stelle. Guantanamo, Obama annuncia il progetto di chiusura del penitenziario a Cuba, i detenuti saranno distribuiti in 13 strutture alternative in America. L'insegnante uccisa nel torinese era ancora viva quando l'abbiamo buttata nella cisterna, dice l'ex allievo accusato di aver partecipato al delitto. Umberto Eco per l'ultimo saluto folla a Milano al Castello Sforzesco. Barrette di cioccolato, la multinazionale Mars ne ritira milioni in 55 paesi, tra cui l'Italia, per la presenza di pezzetti di plastica. Calcio, partita di Champions, è la serata di Juve-Bayern. Partiamo quindi dallo spionaggio americano ai danni di Silvio Berlusconi quando era ancora presidente del Consiglio. La Farnesina, cioè il Ministero degli Esteri, ha convocato l'ambasciatore americano e anche Renzi vuole spiegazioni. È bufera tra Roma e Washington. Chiederemo informazioni in tutte le sedi, anche con passi formali sulla vicenda Berlusconi, tuona il premier Renzi. E un passo formale già è stato compiuto, la convocazione da parte del ministro degli esteri Gentiloni dell'ambasciatore degli Stati Uniti John Phillips. Il governo dunque vuole chiarimenti sulle indiscrezioni secondo le quali l'allora premier Berlusconi e alcuni suoi stretti collaboratori sarebbero stati spiati da parte dell'agenzia di intelligence statunitense dal 2008 al 2011, in particolare nei giorni drammatici che precedettero prevedettero la caduta dell'ex cavaliere, ma anche conversazioni dirette con leader politici come Netanyahu. Insorge Forza Italia che chiede di più: una commissione parlamentare d'inchiesta, l'audizione di Renzi in Parlamento, un incontro urgente con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti Marco Minniti, il quale dopodomani sarà audito anche su questa questione dal Copasir, il capogruppo alla Camera Brunetta. Allora fu un complotto internazionale a far fuori il governo Berlusconi. Noi l'abbiamo sempre denunciato e abbiamo sempre chiesto una commissione parlamentare d'inchiesta che né il governo Letta né il governo Renzi hanno mai voluto. Adesso penso non ci sia più alcun ostacolo. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E poi c'è il caso Abu Omar. La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per il rapimento dell'imam Abu Omar della moschea milanese di Viale Jenner, e sentiamo perché. Strasburgo condanna l'Italia per il caso Abu Omar. 13 anni dopo il rapimento, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo obbliga il nostro paese a risarcire l'ex imam di Milano e la moglie con 85.000 euro, perché le autorità sapevano quanto la CIA stava facendo, concludono i giudici, e perché abusarono del segreto di Stato. Era il 17 febbraio 2003 quando Abu Omar, già sotto indagine per terrorismo, fu prelevato da 007 americani, portato in Egitto e torturato, come raccontò lui stesso a Radio 24. Afni, la persona che l'ha fermato, parlava italiano. Un caso di extraordinary rendition targato CIA, per cui nessuno è stato mai in carcere, né gli agenti americani, condannati ma poi graziati, né i vertici del SISMI, alla fine prosciolti in virtù del segreto di Stato opposto da 4 governi. E tutto perché gli agenti segreti non rispondessero delle loro azioni, critica Strasburgo, che condanna l'Italia proprio per aver reso lettera morta, scrive, lo sforzo degli inquirenti nell'identificare i responsabili di questa brutta storia di spie, segreti e coperture politiche. Raffaella Calandra, Radio 24, il Sole 24 Ore. Chiedo a Renzi l'abolizione del voto segreto, così dice Claudio Fava, vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia, dopo appunto questa condanna di Strasburgo. Invita il Presidente del Consiglio a riferire in aula. L'ha intervistato Raffaella Calandra. Sentenza ineccepibile e prevedibile. La Procura di Milano in questi anni ha svelato come il segreto di Stato in questo caso sia stato usato in modo illegittimo e strumentale, e non è un caso che sia stato adoperato da tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi 12 anni in Italia, a prescindere dal colore politico. Come commissione antimafia, quindi anche antiterrorismo, è possibile chiedere la revoca del segreto di Stato sulla vicenda Abu Omar? Credo che vada fatto, è cosa che io ho già fatto in passato e che farò di nuovo, e credo che vada comunque pretesa dal Presidente del Consiglio dei Ministri la richiesta che venga a discutere in aula su questo punto. Parliamo di terrorismo. È stata rinviata a giudizio Fatima Sergio, la foreign fighter italiana. Tu comandi, tu hai deciso per la hijra, e allora prendi mamma per i capelli e vieni qui a fare la hijra. Così Maria Giulia Sergio, conosciuta come la prima foreign fighter italiana, cercava di convincere il padre a raggiungerla in Siria in una telefonata intercettata. Ora Fatima, come si fa a chiamare adesso la giovane donna di origini campane ma residente a Inzago nel milanese, è stata rinviata a giudizio con l'accusa di terrorismo internazionale. Con la stessa accusa la sorella Marianna, anche lei convertita all'Islam radicale come tutta la famiglia, già detenuta, è stata condannata a 5 anni e 4 mesi. A processo anche il padre delle due ragazze, Sergio Sergio, il quale, dopo la morte improvvisa della moglie, ha fatto sapere di voler tornare cattolico e di aver interrotto i contatti con le figlie. L'uomo è accusato di organizzazione del viaggio in Siria per finalità di terrorismo. A processo anche il marito di Fatima, l'albanese Aldo Cobuzzi, che si troverebbe, insieme alla moglie, ancora in Siria. Roberta Pellegatta, Radio 24, il Sole 24 Ore. Parliamo adesso del carcere di Guantanamo, perché il presidente americano Obama ha annunciato un progetto di chiusura del penitenziario di massima sicurezza a Cuba. I detenuti saranno redistribuiti in 13 strutture alternative in America e ci sarebbero risparmi tra i 65 e gli 85 milioni di dollari l'anno. Chiudere subito la storia controproducente, un capitolo della storia controproducente in lotta al terrorismo. Se qualcosa non funziona, dice Obama, dobbiamo cambiare corso. Da tempo è evidente che Guantanamo mina i valori americani, non aiuta la nostra sicurezza nazionale. La notizia questa poche ore dalle primarie repubblicane in Nevada, dopo dopo dove resta favorito Donald Trump. E siamo alla politica italiana, Unioni Civili, sempre in primissimo piano, via libera del PD a questo maxi emendamento di compromesso con il nuovo centrodestra di Alfano, che elimina quindi la stepchild adoption, anche se non è completamente chiaro il contenuto di questo maxi emendamento, ne parleremo meglio dopo. Renzi dice era l'unica via a questo punto per portare a casa la legge, e così spiega sarà approvata dal Senato in una settimana, alla Camera in due mesi. Alfano però rincara, servono altri ritocchi, la minoranza Dem protesta, è un errore consegnarsi al nuovo centrodestra, mentre il senatore PD Zanda annuncia siamo pronti a un disegno di legge sulle adozioni specifico. Il presidente del Senato Grasso dice che sono inammissibili i canguri e il Movimento 5 Stelle, sottolinea a questo punto avevamo ragione. E dopo lo stralcio della stepchild adoption, apprezzamento anche dal Vaticano, espresso oggi dal segretario di Stato Parolin, conclusione del vertice di oggi tra Italia e Vaticano per i patti lateranensi. Come dicevo, torneremo ampiamente a occuparcene dopo. Restiamo sulla politica, ma puntando sulle prossime elezioni comunali. È Virginia Raggi, la candidata del Movimento 5 Stelle al Comune di Roma. Si sono chiuse infatti le votazioni online, nel quale, come si legge sul blog di Beppe Grillo, hanno partecipato 3.862 iscritti certificati che hanno espresso queste preferenze. Al primo posto appunto Virginia Raggi con il 45,5%, pari a 1.764 voti. Secondo Marcello De Vito, che era già stato candidato, vi ricordate, alle altre comunarie, 35%. Dei voti, pari a 1.347 voti. E l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino rischia due processi, la notizia che arriva da Roma, per le inchieste sul caso Scontrini e sulla gestione della sua Onlus Imagine. La procura di Roma gli ha infatti notificato due avvisi di chiusura indagine, atti che preludono alla richiesta di rinvio a giudizio per le vicende delle spese effettuate, vi ricordate, con la carta di credito del Comune di Roma e dei contratti di consulenza della Onlus. Ma Marino replica: mi sono sempre mosso nel pieno rispetto della legalità ed è per questo che continuerò a impegnarmi per Roma. Europa adesso, con le pagelle che saranno presentate domani, il rapporto sui paesi dell'Unione Europea, ovviamente Italia compresa. Un grosso problema di debito pubblico che non si risolve d'incanto e il nodo stabilità e banche che hanno in pancia troppe sofferenze e titoli di Stato. Questi i rilievi che l'Italia troverà nelle pagelle in arrivo da Bruxelles, ci racconta Patrizia Toia, capodelegazione PD al Parlamento Europeo. Sul debito la situazione sta migliorando e lo riconoscono anche loro. Riconoscono che naturalmente ci vuole del tempo per rientrare, ma anche che la strada è cominciata. Intanto però il debito pubblico monster blocca crescita e investimenti, scrivono i tecnici della Commissione, e le imprese soffrono. Fare business in Italia è più difficile rispetto agli altri big europei, avvertono, puntando il dito contro fisco, burocrazia, evasione e corruzione. Da qui le conclusioni. La modesta crescita e la debolezza strutturale italiane potrebbero avere rilevanti conseguenze sulle altre economie. Nota positiva i passi avanti sulle riforme, partendo da mercato del lavoro e privatizzazioni. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cronaca adesso: l'insegnante uccisa nel Torinese era ancora viva quando l'abbiamo buttata nella cisterna, così dice l'ex allievo accusato di aver partecipato al delitto. E poi parleremo delle altre novità che emergono dall'inchiesta dopo che sono stati arrestati i tre presunti colpevoli. E poi i funerali di Umberto Eco, per l'ultimo saluto c'è stata una grande folla oggi a Milano al Castello Sforzesco, e vi racconteremo i momenti principali con i personaggi e i loro ricordi alla fine oggi della puntata di Effetto Notte. C'è anche questa notizia che riguarda dalle barrette di cioccolato, snacks come vogliamo chiamarle anche in inglese, via milioni di barrette della multinazionale Mars dagli scaffali di 55 paesi al mondo, compresa l'Italia. Vengono ritirati, così come succede con le macchine. L'azienda americana con sede a McLean in Virginia, produttrice di alcuni dei snack più famosi al mondo, tra cui appunto i Mars, ha dovuto procedere al ritiro volontario delle sue barrette con scadenza dal 19 giugno del 2016 all'8 gennaio 2017, dopo che in Germania una consumatrice ha trovato un pezzo di plastica rossa in una barretta di Snickers acquistata lo scorso 8 gennaio. Vediamo se invece è dolce l'inizio di partita con Dario Ricci di Champions. Che fa la Juventus, Dario? È decisamente sofferto, non saprei dirtene il gusto, Roberta, ma decisamente sofferto questo inizio di partita della Juventus. Siamo al 29esimo di gioco contro il Bayern Monaco, è ancora 0-0 a Torino, ma partita aperta e spettacolare. Adesso seguiamo questo contropiede dei tedeschi, chiude Barzagli, rinvia coi piedi Buffon, tedeschi vicini al vantaggio al 13esimo, clamorosa l'occasione fallita da Thomas Müller a 2 metri dalla porta bianconera su assist di Lewandowski, l'attaccante tedesco è incespicato sul pallone con Buffon già a terra battuto, è arrivato Bonucci a respingere, Juventus che prova a controbattere al dominio territoriale del Bayern Monaco. In un paio di occasioni in precedenza era stato Mandžukić, prima con un sinistro debole e poi con una spaccata al lato di poco a sfiorare il vantaggio per i bianconeri, ma insomma la partita la fa il Bayern Monaco, come dimostra anche il sinistro alto di poco di Robben al 23esimo. La Juventus contrattacca, 30esimo di gioco in questo istante, ancora 0-0 tra Juventus e Bayern Monaco allo Juventus Stadium. Grazie De Luigi, a dopo allora. La notizia extra di oggi è questa: l'area dell'India, si è sempre parlato della Cina, no? Il paese più inquinato del mondo, pare che l'India stia peggio, per la prima volta nel XXI secolo infatti, l'India ha superato i livelli di inquinamento atmosferico della Cina, l'esposizione alle polveri sottili nel 2015 è stata in media più alta di quella della Cina, un quadro che spinge all'urgenza di un piano nazionale per contrastare quindi questa emergenza. È l'appello lanciato da Greenpeace India, che ha elaborato un'analisi sui dati satellitari della NASA, dalla quale emerge come in Cina le misure antinquinamento abbiano contribuito a migliorare la qualità dell'aria, mettendo a segno nel 2015 un'importante inversione di tendenza in Cina. Al contrario, in India l'inquinamento ha continuato a crescere negli ultimi 10 anni fino a raggiungere l'attuale livello record. Indiani avvisati. Invece i vostri messaggi stanno continuando ad arrivare, vi ho già avvisati dall'inizio che c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per voi e per gli sms il 349-238-6666. A proposito di quello che avete capito, di tutto quello che è successo in questi ultimi tempi sul disegno di legge Cirinna. Allora Virgo scrive: poteva essere, sulla pagina Facebook di Effetto Notte, poteva essere una buona legge, ma le buone leggi in Italia devono sempre inchinarsi alla Chiesa, gli oltranzisti cattolici, come è successo alla legge sull'aborto inserendo l'obiezione di coscienza, oppure sulla fecondazione assistita. Cristiano dice: lo scenario più sconcio sarebbe stato meglio di tutta questa immonda commedia, una miseria corale da fare epoca, un PD che pur di vantare una legge portata a casa si prona all'inconsistenza di un nuovo centrodestra più che penoso, i 5 Stelle nel loro delirio di purezza che da adesso inizia saranno a dire che colpa degli altri, eccetera. Poi Nena dice: diciamo che se i media avessero fatto il loro mestiere e lo avessero denunciato una settimana fa anziché fare da scendiletto di Renzi, forse oggi saremmo un paese più civile. Però informo Nena che al di là di quello che possono scrivere i media, sbagliato, giusto, fazioso o meno, sono i parlamentari poi che decidono, non scarichiamo responsabilità a destra banca. Ci sentiamo tra pochi istanti e cominciamo a entrare nel cuore degli argomenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E prima di ricordarvi le notizie, proprio sulla pagina di Effetto Notte, pagina Facebook, continuo a leggere alcuni dei vostri messaggi che commentano l'iter che ha avuto sinora il disegno di legge Cirinna. Alberto scrive: non credo che Renzi tema lo sciopero dei voti, visto quello che recupererà in conseguenza dell'approvazione della Cirinna con le modifiche di cui si parla. A proposito appunto dello sciopero del voto annunciato da Famiglie Arcobaleno e associazioni LGBT, e che sono molto scontente di come stanno andando le cose. Enzo scrive: buonasera Roberta, dal poco che posso capire o percepire mi sembra una grandissima vittoria di Renzi, è una legge che piace alla maggioranza degli italiani e alla Chiesa, blinda la maggioranza, i 5 Stelle risultano i soliti guastafeste per di tempo. Bingo, dice Enzo. Giorgio scrive: essenzialmente ho capito che qui non si sa far politica, quasi nessuno la sa fare. Se uno prendesse la legge per come sta diventando, ma la immaginasse come frutto di un iter condiviso, veramente frutto di confronto, potrebbe assomigliare al primo passo di un viatico davvero innovativo e probabilmente più fondato e patrimonio di tutti. Invece, invece ne parleremo tra pochissimo e vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. Appunto, Unione Civili, Renzi chiede la fiducia con lo stralcio della stepchild adoption e dice potremmo arrivare alla fine entro 2 mesi, Alfano però pare incalzi, chieda nuove modifiche. Berlusconi spiato dagli Stati Uniti, questa storia di intercettazioni delle sue telefonate quando era ancora Presidente del Consiglio, l'Italia chiede spiegazioni, la Farnesina convoca l'ambasciatore americano. Italia sotto osservazione, nuove scintille tra Roma e Bruxelles, ma Renzi dice non c'è nessun problema, siamo gli unici a tenere veramente la barra dritta. E poi l'addio laico oggi a Umberto Eco a Milano, cerimonia con musica, omaggio, l'ultimo omaggio al Castello Sforzesco per Eco. E poi la plastica nelle barrette Mars, la multinazionale degli snack le ritira in 55 paesi, compresa l'Italia. Quindi, Unione Civile, a che punto sta il percorso di uno dei più tormentati, travagliati disegni di legge della storia della Repubblica Italiana? Ricordate che la scorsa settimana era scoppiato lo scontro tra PD e Movimento 5 Stelle al Senato sul cosiddetto Super Canguro, che era questo maxi emendamento presentato dal senatore PD Marcucci, che doveva eliminare in un balzo, ecco perché Super Canguro, centinaia di altri emendamenti per rendere l'iter del disegno di legge Cirinnà più snello. Però che cosa è successo? Che a sorpresa il Movimento 5 Stelle ha detto: noi non lo votiamo. Perché? Perché ci sembra una procedura antidemocratica. Indignazione, quindi, e rabbia da parte del PD, che si è sentito tradito. Successivo quindi rinvio delle votazioni sul disegno di legge, che riprendono domani, con annessa anche presa di coscienza da parte del PD di non avere i voti sufficienti in Senato per far passare la legge. Prima per voce della ministra Boschi è stato detto, poi Renzi stesso lo ha ammesso, e quindi dice: dobbiamo arrivare a un compromesso con chi ci sta, quindi col nuovo centrodestra. Che cosa è stato deciso oggi dall'assemblea del PD? Questo emendamento, un maxi emendamento, quello si voglia chiamare, che praticamente stralcia, elimina dal disegno di legge Cirinnà la parte, l'articolo 5, quello sulla stepchild adoption, diciamo l'articolo più controverso di questa legge, quello che ha fatto venire più mal di pancia, che è quello dell'adozione all'interno di una coppia omosessuale del figlio biologico del partner. E il PD, diciamo, a questo punto è ancora un po' spaccato, nel senso che la sinistra del PD però sta dicendo ci sembra, insomma, poco dignitoso consegnarci così completamente nelle mani del nuovo centrodestra. Alfano dice che è praticamente, insomma, è sufficiente, abbastanza soddisfatto, pare che però stia chiedendo ancora degli altri ritocchi. Non è ancora chiarissimo che cosa contenga questo maxi emendamento, e infatti anche appunto dalla sinistra Dem chiedono maggiori chiarimenti prima di votare questa fiducia, che dovrebbe essere votata su questo maxi emendamento giovedì. Però io direi che prima di chiedersi chi ha perso, chi ha vinto, chi ha fatto le peggio figure in questa vicenda, va aggiunto che oggi il presidente del Senato Grasso ha detto che i super canguri sono inammissibili. Allora si può chiedere, ma non poteva dirlo prima, anche perché è proprio lì che è scoppiato questo scontro PD Movimento 5 Stelle, ed è lì che la legge a questo punto si è bloccata. Allora lo chiedo anche a Maria Teresa Meli, commentatrice politica del Corriere della Sera, che ringrazio. Ciao Maria Teresa. Ciao. Secondo te, a parte la voce, no, ammalata. Sei sempre sexy, Maria Teresa, anche con la voce così. Dico, ma Grasso non poteva dirla prima questa cosa? Perché dopo una settimana è venuto fuori? Ma ovviamente non poteva dirla prima, perché qua c'è tanta gente che fa tanta scena. Grasso, se l'avesse detto prima, sarebbe preso l'accusa di essere contro le unioni civili. Lui lo ha detto soltanto quando questo maxi canguro non era più in campo, cioè quindi quando il suo no era del tutto ininfluente, però per fare la parte di quello che difende i valori del Parlamento, eccetera, eccetera, eccetera, che si è dimenticato di difendere una settimana fa e si è ricordato oggi. Alfano strepita, perché ognuno fa la scelta, Alfano strepita, dice no, vogliamo di più. Alfano in realtà già ha avuto quello che ha avuto, e gli toccherà, credo che alcuni dei suoi non lo voteranno, votare per le unioni civili, che diciamo per il suo partito è una cosa abbastanza forte, tant'è che Formigoni, Sacconi, quella parte, diciamo, più oltranzista del suo partito non voterà la fiducia, e fare una scena anche la minoranza del PD in fondo, perché dentro questa assemblea dei gruppi dove si sono parlati, la minoranza, quella che è più esterna, cioè i Gotor, eccetera, eccetera, hanno taciuto. Beh, ma poi te lo faccio sentire, tra poco te lo faccio sentire, Gotor, anzi te lo faccio sentire subito, sì, sentiamo Gotor, che fa parte appunto della minoranza Dem del Partito Democratico, sentiamo cosa ha detto. Io credo che ci si stia appoggiando alla presunta indisponibilità dei 5 Stelle, è stata enfatizzata e viene enfatizzata questa indisponibilità per stralciare la stepchild adoption e appunto consegnarsi mani e piedi a NCD. E adesso, anzi, farei sentire prima di Alfano, Maria Teresa Meli, questo è quello che ha detto Gotor, che quindi il PD sta cercando di scaricare sul Movimento 5 Stelle, come lo stesso Movimento 5 Stelle diceva di se stesso, la responsabilità del fallimento in parte di questa legge, perché molti vedono il bicchiere mezzo pieno. Sentiamo proprio Di Maio del Movimento 5 Stelle. Il problema principale è che in questo paese la Costituzione la riformano con Verdini, la legge elettorale con Berlusconi, il Jobs Act lo fa chi non ha mai lavorato un giorno in vita sua, ai pensionati mette mano chi prende le pensioni d'oro e le unioni civili le fanno con Alfano. Aspettiamo la riforma della giustizia con Totò Riina e poi le abbiamo completate tutte probabilmente, perché di questo stiamo parlando, perché l'accordo con Alfano non porterà a nient'altro che una legge sulle unioni gay che non piace neanche ai gay. Questo è sicuro, perché i gay sono da giorni sul piede di guerra, sia contro il Movimento 5 Stelle da una parte, adesso contro questo che ritengono un compromesso al ribasso. Per chiudere con le voci, Maria Teresa Meli, ti faccio sentire anche brevemente Alfano. Crediamo che stia prevalendo il buonsenso, ci sono ancora alcuni aspetti da ritoccare sul cosiddetto simil matrimonio e penso che siamo su una strada positiva, ma ancora credo che dovremo lavorare nelle prossime ore per capire se arriviamo a destinazione. Maria Teresa Meli, tra l'altro qualcuno dice maliziosamente, Alfano fra l'altro col nuovo centrodestra aveva incassato nel rimpasto anche varie promozioni, sottosegretari eccetera, e non paga neanche il debito, anzi è il vero vincitore di questa storia. Che ne pensi? Ma vincitore di che? Scusami, io te lo dico in italiano, mi viene da dirlo alla romana. No. Vincitore di che? Cioè, nel senso che lui sta portando il suo partito a votare le unioni civili tra i gay. Che dici, che per loro sono un po' come il diavolo? Assolutamente sì. Dopodiché l'errore iniziale lo ha fatto il governo, lo ha fatto la maggioranza, lo ha fatto il PD, a mettere la stepchild in questo disegno di legge, in questo disegno di legge. Quindi questo è stato il problema, dice, avrebbe dovuto dall'inizio metterlo da parte. Ma si sapeva dall'inizio che questo Parlamento rappresenta questo paese, che purtroppo è indietro anni luce rispetto alla civiltà e alla modernità, è un Parlamento retrogrado che non era in grado di far passare una legge del genere, non era in grado di far passare la stepchild adoption. E questa è la verità, quello che è normale negli altri paesi da noi purtroppo non è normale e quindi avrebbero dovuto procedere con maggior cautela dall'inizio. Quindi un esame di coscienza da parte del PD, Renzi in tutto questo ha una sua responsabilità, quindi il PD nel suo complesso e soprattutto il segretario presidente del Consiglio come giudichi? Il segretario presidente del Consiglio è stato fuori da questi giochi, ha detto fate una legge, la faccia il Parlamento, proprio perché sapeva che ogni volta che ci ha messo mano il governo, ricordiamoci Dico, Di Prodi, purtroppo mai dimenticati, non funziona, perché non funzionava, e quindi ha lasciato fare al Parlamento. Dopodiché il Parlamento non è stato in grado di fare una legge, e questo la dice anche lunga sul Parlamento, diciamo, se qualcuno voleva la prova provata che forse il Senato è meglio eliminarlo, ce l'ha avuta con questo spettacolo semplicemente miserevole di gente che non è in grado di votare la stepchild adoption, perché è inutile che Di Maio dica adesso noi la votavamo, loro si sono divisi, all'improvviso hanno inventato la libertà di coscienza da che invece era una cosa che bisognava fare assolutamente e ora si impancano a fare a fare la morale a qualcuno, ma non possono fare la morale neanche loro. Cioè, se questa legge non è passata nella versione originale è perché loro non hanno detto di no al canguro, stop, il resto sono tutte chiacchiere. Maria Teresa Meli, per chiudere, a questo punto passa col voto di fiducia, quindi al Senato si vota giovedì, poi passerà alla Camera, dice Renzi entro 2 mesi si porta a casa, così? Ma a questo punto passami, oggi era abbastanza palese anche le reazioni del Vaticano, dove sono andate, però per la commemorazione dei patti lateranensi, è visto palesemente che il Vaticano nazionale barricate, ovviamente non può dire che bello avete fatto le unioni civili, però una volta tolta la stepchild il Vaticano non sembra intenzionato a fare delle battaglie, credo che in compenso avrà fatto come fa sempre il Vaticano, avrà chiesto degli aiuti per le scuole paritarie, queste cose che normalmente tu dici don't des. Maria Teresa, ti sto perdendo, ma non per la tua voce roca, cioè forse c'è il telefono che va e viene. Un'ultimissima cosa, tu hai capito se c'è solo questo dentro il maxi emendamento, c'è solo lo stralcio della stepchild adoption o qualcuno teme anche altre cose? No, ti sento proprio più, non ti sento proprio più dentro la legge, mi senti? ora sta proprio fermo. Sarà dentro la legge quelli Niente, Maria Teresa. Comunque tutto chiaro quello che hai detto finora. Grazie Maria Teresa Meli del Corriere della Sera. Mi sembra che abbiamo un aggiornamento sulla partita di Champions. No, Dario non c'è, però il Bayern ha fatto un gol, se non sbaglio. Aggiorniamo immediatamente, più o meno in tempo reale. Sì, sì, Juventus-Bayern 0-1. Ci prendiamo una piccola pausa di riflessione e ci ritroviamo a pochi istanti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto nel momento giusto con la conduttrice giusta Roberta Giordano con voi. Vi ho ripilogato tutta la giornata, abbiamo parlato lungamente di quello che sta avvenendo sul disegno di legge delle unioni civili. Adesso passiamo a un altro argomento. Tra poco vi ricordo di nuovo, se avete acceso in questo momento anziché puntualmente alle 21, le notizie più importanti di questa giornata. Intanto continuano i vostri messaggi su quello che avete capito e come commentate tutto questo iter del disegno di legge Cirinnà. C'è per esempio Tommaso che scrive: Grasso dice che il super canguro con quelle modalità inammissibile, ne erano stati presentati 7. Alberto, il quadro di Alessio è un altro, vabbè, un altro ascoltatore. Si rifà Maria Luigia, dice: in questo paese non possiamo sperare di evolverci, questa classe politica ci fa restare fermi. Poi al 349-238-6666 Roberto da Roma scrive: purtroppo il Parlamento italiano e di conseguenza il governo sono completamente staccati dalla realtà sociale italiana, non hanno il coraggio di veri provvedimenti, fanno pena. Quali sono però le altre notizie importanti della giornata, appunto a parte il disegno di legge sulle unioni civili con Renzi che ha trovato questo compromesso con il nuovo centrodestra, eliminando l'articolo 5 sulle adozioni, chiederà la fiducia giovedì in Senato. Berlusconi, vittima dello spionaggio da parte degli Stati Uniti quando era ancora Presidente del Consiglio, l'Italia chiede spiegazioni, è stato convocato l'ambasciatore americano. E poi la Strasburgo che condanna l'Italia per il rapimento di Abu Omar, la Corte Europea dice i governi hanno abusato del segreto di Stato. E c'è sempre la partita di Champions Juve-Bayern, per il momento conduce il Bayern, se non sbaglio, Dario Ricci? Sì, Roberta, è proprio quello che volevo dirti ormai da qualche minuto. È finito il primo tempo e il Bayern è in vantaggio per 1-0, un Bayern finora davvero troppo forte per una Juventus che ce la sta mettendo tutta, ma è la qualità che stanno esprimendo i tedeschi questa sera allo Juventus Stadium è davvero superiore. Bayern vicino al vantaggio già al 13° e Thomas Müller da pochi passi a commettere un clamoroso errore a Buffon ormai battuto. Ebbene, lo stesso Müller che al 44° invece sigla l'1-0 a conclusione di una bella azione iniziata da Robben, rifinita da Douglas Costa e conclusa proprio dall'attaccante tedesco. Bayern che ha il controllo della gara, la Juventus prova a colpire in contropiede, ci aveva provato a inizio gara in due occasioni Mandzukic senza fortuna, ma davvero ci vuole un'impresa per ribaltare questo 1-0 e probabilmente il destino di questa qualificazione. Staremo a vedere nella ripresa. Grazie Dario da Torino. Adesso invece andiamo sull'omicidio di Gloria Rosbock, l'insegnante di Castellomonte, uccisa il 13 gennaio, il cui cadavere è stato ritrovato venerdì nella cisterna di una discarica nelle campagne del Canavese, a poca distanza da Castellomonte, in provincia di Torino. Questa insegnante di 49 anni, insegnante precaria di francese di una scuola media di Castellomonte, viveva lì con la sua famiglia da sempre, la dolce Glo, come la chiamava il suo ex allievo Gabriele De Filippi, del quale lei si era invaghita e per questo lui era riuscito, circuendola insomma, a ottenere da lei 187.000 euro che dovevano essere, diciamo, l'inizio di una loro storia in comune altrove, che poi invece si sono volatilizzati. Ed è stato quando lei ha denunciato lui per truffa che probabilmente a lui è venuta poi l'idea di ucciderla. Gabriele De Filippi quindi è stato arrestato, studente, ex studente, ventenne, insieme a sua madre Caterina Battista, a quello che è considerato il suo amico amante Roberto Obert, che è un operaio di 54 anni, convalidato ieri il fermo di tutti e tre da parte della GIP. I primi due, cioè Gabriele De Filippi e Roberto Obert, sono accusati di omicidio premeditato e occultamento di cadavere. I due uomini si incolpano a vicenda, versioni contrastanti, il ruolo della donna ancora non è chiarissimo. Per i carabinieri comunque l'omicidio è sicuramente stato premeditato. Qual è la novità di oggi? Fra le novità di oggi è che Gabriele De Filippi risulterebbe aver detto agli inquirenti che la donna era ancora viva, anche se risulta morta per strangolamento, quando l'hanno buttata nella cisterna. Ci aggiorna Filomena Greco del Sole 24 Ore da Torino. Filomena, questa era l'ultima novità, potrebbe essere una sua ulteriore invenzione, Filomena? Sì, questa è l'ultima novità ed è una novità emersa proprio dall'interrogatorio di garanzia fatto ieri dal GIP. La ricostruzione fatta da Gabriele De Filippi farebbe riferimento al fatto che la Rosebox sia stata appunto buttata nella vasca dove poi è stato ritrovato il suo corpo venerdì scorso, ancora viva. Lei si lamentava, ha raccontato Gabriele durante l'interrogatorio, e noi l'abbiamo buttata di sotto. In realtà questa ricostruzione è un po' è da valutare sostanzialmente. Primo, perché fondamentalmente è in contrasto con la ricostruzione fatta dagli inquirenti. Gli inquirenti sono convinti che la Rosebox sia morta per soffocamento, sia morta perché strangolata, sia morta in pochi minuti e sia stata gettata appunto già morta all'interno di quella cisterna. Ed è una cosa che è avvalorata, è la cosa importante di tutta questa ricostruzione, avvalorata dall'esame del cadavere, insomma, che è stato fatto nelle ore successive al ritrovamento, che appunto con chiarezza, dal quale emerge con chiarezza che non ci fosse acqua all'interno, come non ci fosse acqua all'interno dei polmoni di questa donna, e quindi come questa donna sia morta per strangolamento e non invece perché ha ingerito dell'acqua e quindi all'interno della vasca ancora viva. Tra l'altro risulta che anche Marzia Lachello, l'insegnante di Ceresole che era comparsa al Festival di Sanremo sul palco dell'Aristo con Conti come la maestra con la scuola più piccola d'Italia con due allievi, anche lei poi ha scritto su Facebook che aveva avuto una relazione con lui, come ho fatto a essere stata così stupida. Quindi insomma emergono altre storie, lo definiscono un manipolatore di adulti, Gabriele De Filippi. Comunque l'inchiesta va avanti, vedremo nei prossimi giorni che cosa emerge. Grazie Filomena Greco da Torino. Ciao Filomena. Grazie a voi. Ciao. Europa 24 notte. Per l'Europa parliamo della crisi nella regione del Medio Oriente e nel Nord Africa e crisi dei rifugiati conseguente. Questi due temi nevralgici oggetto della riunione che si è tenuta tra l'altro rappresentante della politica estera europea Federica Mogherini e gli eurodeputati della Commissione Affari Esteri e alcuni membri dei parlamenti nazionali. La crisi nella regione del Medio Oriente e Nord Africa e la crisi dei rifugiati, gli eurodeputati della Commissione Affari Esteri e alcuni membri dei parlamenti nazionali hanno incontrato l'alto rappresentante Federica Mogherini per toccare i temi nevralgici. Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Noi da questo punto di vista sì, siamo felici che finalmente si sia preso atto dell'importanza del ruolo fondamentale che gioca la Russia e gioca anche l'Iran nella regione. Quindi siamo contenti di questa presa d'atto, ma sottolineiamo il fatto che ancora oggi non è stato risolto il vero nodo fondamentale, ovvero il futuro politico di Assad. In realtà siamo ancora molto lontani dal rilancio di un processo politico che possa portare poi effettivamente a un governo internazionale e a una transizione. La cosa importante è anche capire le questioni più attuali, più scottanti, come quella dei droni o il coordinamento con la NATO, oppure per quanto riguarda l'ONU. Ecco, quali sono in questo senso i passi da effettuare e effettuati? Interventi unilaterali senza avere una chiara valutazione di impatto di quelle che ne saranno le conseguenze, senza poi volersi veramente impegnare in una transizione, vogliono dire condannare un paese all'instabilità. In questo momento l'attacco e l'utilizzo di droni da parte degli Stati Uniti ci fa temere che si sia entrati nel preludio di un'operazione militare, ma soprattutto c'è il fondatissimo sentore, il rischio che un intervento militare occidentale nel paese possa portare non Daesh a indebolirsi, ma a diventare il faro e il catalizzatore di tutte le milizie islamiste presenti non solo in Libia ma anche nei paesi limitrofi. Per un intervento coordinato sul piano europeo si schiera Stefano Maullu, eurodeputato del gruppo del Partito Popolare Europeo Democratici Cristiani. L'Unione si muove anche attraverso i paesi aderenti. L'autorizzazione che il governo italiano ha dato per l'utilizzo dei droni è condizionata a una serie di specifiche. La prima, che devono essere utilizzati soprattutto quando le forze speciali sono in azione, quindi in attività di supporto quando le stesse sono in difficoltà. È noto a tutti che noi abbiamo le nostre forze speciali in campo e mi riferisco al comando subacqueo incursori della Marina ormai da molti mesi, insieme a le forze speciali britanniche, francesi e americane. Io credo che intanto ci sia stato un atto di coraggio da parte del governo nello sviluppare questo genere di azione, ma non basta ovviamente a utilizzare le forze speciali. Credo che il lavoro politico debba essere accompagnato da un messaggio di speranza che solamente un grande piano per il Mediterraneo e per il Nord Africa può dare. Non esiste un antidoto diverso all'integralismo religioso e alla ricomposizione delle varie componenti libiche. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte. In collaborazione con Euronet Plus. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ora ve le ricordo brevemente, Roberta Giordano sempre con voi, un messaggio al 349-238-6666. Il ministro Cirinnà, no, non è ancora ministro, è una senatrice, aveva promesso le dimissioni in caso di stralcio delle adozioni, manterrà la promessa? Mi ricordo che aveva detto una cosa del genere, ma non mi ricordo se non passava proprio la legge o se c'era questo stralcio, poi approfondiremo. Invece, per le notizie più importanti della giornata, il caso Abu Omar, la Corte di Strasburgo condanna l'Italia per il rapimento dell'imam della moschea milanese, unioni civili, via libera del PD al maxi emendamento che elimina alla stepchild adoption, c'è pure il sì del Vaticano, giovedì si vota la fiducia, le candidature per Roma, Virginia Raggi, la candidata del Movimento 5 Stelle, Guantanamo, Obama annuncia il progetto di chiusura del penitenziario a Cuba, l'insegnante uccisa nel Torinese, ne abbiamo appena parlato, era ancora viva quando l'abbiamo buttata nella cisterna, dice l'ex allievo accusato di aver partecipato al delitto, Umberto Eco per l'ultimo saluto, folla Milano al Castello Sforzesco e per la Champions sempre il Bayern in vantaggio di 1-0 sulla Juventus. E adesso sentiamo allora l'ultimo omaggio a Umberto Eco, oggi al Castello Sforzesco, vi dicevo, con una cerimonia laica. Ce lo racconta Marta Cagnola, che era presente ai funerali. Una cerimonia sobria, l'omaggio delle istituzioni, ma soprattutto il ricordo degli amici e della famiglia. Milano ha salutato Umberto Eco in un pomeriggio di fine inverno nel cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco, sotto un sole pallido e un freddo che non se ne andava via. Le istituzioni, dicevamo, la corona di fiori della Presidenza della Repubblica, quella della Presidenza del Consiglio e anche della Repubblica Francese, il ricordo del sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, e dei ministri Stefania Giannini e Dario Franceschini. Legge da ascoltarlo, certamente, ma Eco andava anche guardato, come si guarda un quadro, come si guarda un paesaggio. Guardarlo nei suoi momenti di silenzio, magari mentre scarabocchiava, o mentre manipolavi il sigaro o faceva ondeggiare il whisky dentro il bicchiere alla fine di una cena, o camminando silenzioso sotto il cappello. Allora guardandolo era possibile capire, vedere che in quei silenzi stava consultando la sconfinata biblioteca che aveva dentro di sé. Era come vederlo camminare tra gli infiniti scaffali della sua mente. In quei silenzi stava cercando, stava lavorando. Aveva proprio ragione Conrad, Joseph Conrad, quando, parlando del suo mestiere, il mestiere di Eco, il mestiere più bello del mondo, si domandava: come faccio a spiegare a mia moglie che quando guardo fuori dalla finestra sto lavorando? Ecco, grazie maestro, grazie di aver guardato tutta la vita fuori da quella finestra per tutti noi. Tanti gli scrittori e personaggi della cultura, molti nascosti tra la folla. C'era Roberto Benigni, che non ha preso pubblicamente la parola, ma ha fatto sentire la sua presenza. C'era l'ex rettore dell'Università di Bologna, Ivano Dionigi. C'era l'attuale rettore, Francesco Ubertini. A parlare per la casa editrice che Eco aveva appena fondato, La Nave di Teseo, Elisabetta Sgarbi. Vorrei che ora Umberto potesse dire a mia madre che va tutto bene, che la nave è salpata. Umberto Eco non aveva alcun bisogno di fondare La Nave di Teseo. Lo ha fatto perché si deve, ha detto alla Repubblica, come atto di libertà per i suoi figli e per i suoi nipoti. Lo ha fatto per regalare un futuro. perché questo in fondo vuol dire fondare una casa editrice, regalare un futuro. E per il suo futuro, quello di scrittore, Umberto Eco ha lasciato a Mario Andreose, a noi della nave di Teseo, tra cui Anna Maria Lo Russo, il compito di garantire unità, continuità, vitalità al suo catalogo. Quindi, mi raccomando, Mario, non fare niente di diverso dal grande lavoro che in questi 35 anni hai fatto con Umberto, anche se lui non c'è. Tu e Umberto mi avete insegnato, e ancora imparo, la centralità dell'autore e dell'editore, la nostra nave di Teseo e questo insegnamento. Ma a commuovere ed emozionare soprattutto i ricordi degli amici, il jazzista Gianni Coscia, l'attore e musicista Moni Ovadia. Posso dire questo, che è un ricordo che resterà per tutta la mia vita. Una volta mi disse: facciamo una vacanza, e citò alcuni nomi di amici, vieni tu, viene Furio, di Freddo Ciafurio Colombo, facciamo la transiberiana andata e ritorno e passiamo tutto il tempo a raccontarci storielle, barzellette e aneddoti. Cioè aveva questa libertà di essere aperto a ogni forma del comunicare, non aveva supponenza di sé, non aveva prosopopea, aveva veramente la grandezza dell'uomo di cultura e dell'erudito. Rendiamoci conto, e rendiamoci conto di quale compito arduo abbiamo. Noi non rivedremo un Umberto Eco nel tempo della nostra vita, non solo nel mio che ho 70 anni, ma neanche nel tempo delle generazioni più giovani di me. Ma io mi ricorderò, ho dei ricordi molto personali, cioè le nostre notti trascorse a raccontarci storielle e barzellette, fino ad andare in fondo alla memoria, anche a ricordare quelle barzellette proibite che si raccontano i bambini nell'epoca della scuola, fino a lì scendevamo nella memoria. E ricordo, questo era un ricordo così che cullerò nella mia memoria. Una volta lui, depresso, dopo una di queste nottate, depresso si fa per dire, con un'aria di depressione, mi disse: adesso io so le tue, tu sai le mie, come facciamo? Io gli risposi: non ti preoccupare, Umberto, la pietas dell'Alzheimer o dell'arteriosclerosi ce le farà dimenticare e ce le riracconteremo mille volte di nuovo. Avete riso? Certo, ovviamente. Poi la famiglia di Umberto Eco, nelle parole dell'amico Gianni Vattimo. Lo ricordo, devo dire, quando 2 anni fa sono stato per un po' a casa sua al mare, al Monte Cerignone, dove, non al mare, insomma in campagna. E lo ricordo come uno che faceva il nonno, che mi stupiva molto perché era un personaggio mondiale. E allora invece lì si aggirava in ciabatte bermuda nel giardino di quella casa di campagna, occupandosi della nipotina che aveva poco, adesso non so se sia 6 mesi, aveva 6 mesi, reagiva alla parola Galapagos. Dice: quando dico pal Galapagos, lei ride tutta contenta, e noi abbiamo per un po' chiacchierato intorno a Galapagos, ci siamo scritti dei messaggi, dice: come va Galapagos, eccetera, cose così. Ma lui era lì, era stata veramente una lezione di umanità che accettava i suoi limiti. Del resto lui continuava a lavorare come una bestia, naturalmente, però si era messo dice: sai, io ho più di 80 anni e adesso ce li ho anch'io. Ho imparato un po' ad essere vecchio senza troppe... Vabbè, lui poteva essere vecchio senza rimpianti perché ne aveva già fatti tutti i colori, invece se invecchio mi manca sempre il tempo di finire ancora qualcosa. Ma che cosa? La nave di Teseo, spiegava Elisabetta Sgarbi, è nata come un atto di libertà per figli e nipoti, e il nipote Emanuele, serio e orgoglioso, ha ricordato il nonno così. Caro nonno, volevo fare una lista, visto che le liste ti piacevano tanto, di tutte le cose che abbiamo fatto insieme in questi 15 anni. Ma sarebbe stata troppo lunga e non avrei avuto il tempo di leggerla tutta. Però, come tu ben sai, tante volte mi è stato chiesto: cosa si prova ad avere un nonno così? E io, in preda al panico, non ho mai saputo dare una risposta soddisfacente a questa domanda. Ma devo ammettere che, da quando non ci sei più, ho cominciato a rifletterci sopra. Sin da piccolo ho apprezzato il tuo affetto, la tua generosità, ma soprattutto la tua saggezza. Poi, crescendo, poco a poco, ho fatto tesoro della tua intelligenza, delle tue conoscenze e del tuo senso dell'umorismo che non mancava mai. Ti voglio ringraziare per tutte le storie che mi hai raccontato, per le parole crociate che abbiamo fatto insieme, per i libri che mi hai regalato, per la musica che mi hai fatto ascoltare e per i vari viaggi che abbiamo intrapreso noi due da soli. Per tutto ciò che mi hai trasmesso e che io, a mia volta, mi sento di dover trasmettere a mio fratello Pietro e a mia cugina Anita. Perciò, tornando alla domanda che mi è sempre stata fatta, posso dire che averti come nonno mi ha riempito d'orgoglio. Grazie, nonno. Ultimo saluto, insomma, Umberto Eco oggi a Milano al Castello Sforzesco. Adesso invece Dario Ricci dallo stadio di Torino, che ci dici della partita Juventus-Bayern? 54esimo di gioco, Bayern Monaco in vantaggio sempre per 1-0, decide finora la rete al 44esimo di Thomas Müller, e il Bayern a fare la partita. La Juve ci mette l'orgoglio, ma finora superiori, decisamente superiori, i bavaresi. 55esimo in questo istante, Juventus 0, Bayern Monaco 1. Grazie Dario Ricci. Intanto, tornando su Unioni Civili, Giovanna scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte: la filosofia del piuttosto che niente, meglio piuttosto, non può essere applicata ai diritti civili. Renzi è un bravo burattinaio, anch'io sono convinta che non voleva l'adozione sin dall'inizio. Molti altri vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, però con questo omaggio Umberto Eco non c'è stato molto tempo di leggere, potete andarli a vedere, però sono molto interessanti sulla pagina. A tra poco.